spara al ritmo della fiamma, si accende un nuovo inferno qui dentro, sempre più giù. Chiedi lì giù, giù, giù, si cade al centro. Scava l'aria sotto il cielo, prende spazio.